Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Radio Onda Rossa 87900, la modulazione di frequenza, questa è Visionari, il consueto appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15, giovedì 2 aprile del 2009, le 14 e un minuto primo. Per saperne di più sulla scaletta potete consultare il sito della radio, ossia ondarossa.info, dove troverete gli ospiti di questa puntata e poi le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione e poi link per dare un'occhiata a interviste, recensioni e conferenze stampa e poi anche per quanto riguarda suggerimenti sulla programmazione dei film in televisione per tutta la settimana, oltre ai link per riascoltare le puntate precedenti. Diamo subito spazio ai nostri numerosi ospiti. Buon pomeriggio a Sabrina Guigli, eccoci qui. Ci sei? Pronto? Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ti sento molto bassa. Mi sento malissimo, pronto? Io ti sento molto bassa. Anch'io. Come facciamo? Come facciamo? Ti posso richiamare? Provo io allora a rifarti uno squillo, dai. Ok. Ci riproviamo. Eccomi. Oh, sempre ciao, un po' bassa, buongiorno. Però va bene, dai. Tentiamo. Allora, parliamo con te del film di cui sei co-regista, Sopra le nuvole. Sì. Allora, un film che racconta di un eccidio dei nazisti durante la loro ritirata in Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l'occupazione nella zona del Reggiano. Tra il modenese e il reggiano, sì. Sì. Allora, raccontaci un po' intanto la vicenda. Sono stati due episodi avvenuti, uno nella provincia di Modena e uno nella provincia di Reggio, nel marzo del 1944. Due stragi tra le prime di civili. In provincia di Modena, a Monchio, furono uccisi 131 persone, tra cui donne e bambini. Due giorni dopo, il 20 marzo del 44, a Cervarolo, in provincia di Reggio Emilia, furono uccisi 24 uomini, tra cui anche persone anziane e disabili. Furono due grandi stragi, anche perché poi in questi paesi di montagna, che erano molto piccoli e poveri, ci fu proprio un salto generazionale dopo questi eccidi, e c'è ancora il voglia di ricordare, anche perché furono due eccidi poi dimenticati, sì. Ritrovati nel famoso armadio della vergogna del 94, e furono sempre, diciamo, due stragi passati, furono chiamate di serie B, forse per i numeri, forse di cui poco si conosce, ecco. Naturalmente credo non sia, visto che si trovavano questi dati nel cosiddetto armadio della vergogna, non è stato istituito alcun processo per i responsabili. Fino all'anno scorso no, quest'anno invece sì, attraverso il procuratore De Paolis, attraverso l'associazione dei familiari delle vittime via, si è riuscito finalmente a riaprire il processo. Anche le due province si sono costituite parti civili e proprio quest'anno ci sarà il processo, perché hanno individuato ancora dei soldati in vita, sei, della precisione, perciò si aprirà il processo, il caso, ecco. Allora, la vostra operazione, oltre che documentata, ha anche alcune caratteristiche interessanti, ossia avete fatto partecipare come interpreti gli abitanti del luogo, avete fatto anche una ricerca per quanto riguarda gli utensili quotidiani che venivano utilizzati, le location sono quelle, insomma siete entrati in quella storia. Sì, perché noi volevamo cercare di ricreare il più possibile l'atmosfera del 44 e perciò abbiamo deciso, innanzitutto in un anno di ricerca storica abbiamo intervistato superstiti, familiari, persone che erano a conoscenza dei fatti, cercando proprio di individuare tutti quei casi, diciamo, di vita, quegli episodi di vita familiare. E più siamo andati alla ricerca appunto dei luoghi, non so, l'aia di Cervarolo di uno dei due cibi è ancora l'aia originale, sì. Mantenuta, e poi per esempio abbiamo anche utensili, vestiti dell'epoca, per esempio ritraiamo un matrimonio, il vestito della sposa è originale del 38. E in più, secondo noi, volevamo che questo film fosse proprio un film della gente di quei luoghi e dei familiari. Ecco perché abbiamo alcuni familiari che vengono a interpretare il proprio caro, per esempio un nipote che interpreta il nonno e una nipote che interpreta la propria nonna, ecco. Allora, che tipo di distribuzione avrà? Come vi state muovendo rispetto appunto ad un eventuale pubblico? Al momento stiamo facendo una distribuzione, noi la chiamiamo porta a porta, nel senso che noi siamo due registi sconosciuti, gli attori sono sconosciuti, abbiamo solo un attore professionista che è Maximiliano Certok, che interpreta il comandante tedesco, e perciò diciamo non abbiamo molta attenzione da parte della gran distribuzione. Allora siamo noi che andiamo a bussare al cinema, chiediamo di poter proiettare almeno una sera il nostro film, e nelle province di Modena e Reggio stiamo avendo fortunatamente successo, nel senso che ce lo stanno rinnovando, perché per esempio al Caragna Sassuolo, che tiene 800 posti, abbiamo fatto 6 serate tutte esaurito e poi ce lo stanno richiedendo. Adesso speriamo di riuscire ad andare anche oltre le province di Modena e Reggio. Adesso avremo delle proiezioni alla Spezia, a Viareggio. Speriamo di arrivare insomma anche a Roma, Milano. Sicuramente il fatto che il film è stato visto da Mario Monicelli e che ha concesso a noi un'intervista nel quale definisce il film straordinario gli attori, un film che va visto, che è una poesia, questo può dare qualità visibile, sì, a questo, sì, film. Sì. Sabrina, volevo chiederti, sì, Per chi volesse saperne di più, eventualmente anche contattarvi, c'è un, sì, riferimento su internet? Noi abbiamo un sito internet, sì, che è www.nellenuvole.it, nel quale appunto c'è l'email, c'è il blog a cui diciamo teniamo sempre aggiornato sulle varie proiezioni, sui vari avvenimenti che riguardano il film. Adesso avremo una proiezione, stiamo organizzando una proiezione al Quirinale, perché sono stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, il quale appunto ha accettato di vedere questo film direttamente a casa sua al Quirinale, oppure abbiamo fatto una proiezione a Roma per il Presidente del Senato Schifani. Insomma, in questo sito si trovano tutte le notizie inerenti proprio al nostro film. Bene, allora in bocca al lupo, un abbraccio e spero di risentirti prossimamente. Grazie mille, grazie il lupo e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ed era Sabrina Guigli, co-regista del film Sopra le nuvole. Andiamo avanti. pomeriggio a Pietro Murchio, direttore della quinta edizione del premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime a Roma dal 30 marzo al 4 aprile. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Come va? Bene, bene, ho avuto una mattinata faticosa. Ho completato lo spoglio delle schede e del giudizio del pubblico sui tre film in concorso. Allora, festival in pieno corso, intanto come è strutturato e poi cosa si è visto e cosa si vedrà? Allora, la manifestazione è dedicata al cinema giovane italiano e in particolare alle opere prime. Sì. Nella manifestazione sono presenti ben 10 film del cinema giovane italiano, di cui 7 opere prime, e di queste 3 sono selezionate dalla commissione degli esperti per andare in concorso, essere quindi scelte dal voto del pubblico, che in questi primi 3 giorni della rassegna ha avuto ben 12 proiezioni dei 3 film, 4 per ciascuno dei 3 film in concorso, con le schede voto che riportano i giudizi a mo' dei giornali, in stelline diciamo. Il pubblico che le vede all'uscita della proiezione compila una scheda, la mette in un'urna e oggi l'abbiamo scrutinata. Poi noi durante la settimana completiamo la rassegna con le altre opere prime e altri 3 film selezionati del cinema giovane italiano, nei quali sono presenti dei giovani che sono candidati al premio del migliore interprete giovane della stagione appena trascorsa, cioè il 2008. Cioè, la manifestazione è una manifestazione che valorizza il cinema giovane italiano prendendo in esame tutto quanto di meglio è stato fatto nell'ultimo anno. Questo in sostanza è la panoramica. La premiazione ci sarà venerdì sera. Questo pomeriggio ci sarà un forum sempre sul cinema giovane italiano a segni di crescita, con la presenza di registi, produttori, critici cinematografici, e sabato poi si conclude con la premiazione di una mostra di arti figurative che ha fatto, se vogliamo, da corollario alla manifestazione nell'auditorio di San Leone Magno, con la presenza nel foyer dell'auditorio di quasi 200 opere portate dai soci del Cinecircolo, dagli ospiti delle altre associazioni come Pittori di Via Margutta, l'Associazione delle Arti, i Discepoli dell'Upter e così via. Quindi nelle foglie dell'auditorio ci sono quasi 200 opere di arte figurative che adornano, se vogliamo, per l'occasione il foyer. Allora, quinta edizione, come si è sviluppato in questi anni il festival? Hai visto una crescita rispetto anche ai lavori? Sì, è stato sempre una crescita e anche un perfezionamento organizzativo, perché tutta la manifestazione è retta e deve mettere le sue basi sul fatto che il Cinecircolo è il più grande cineclub d'Italia, con più di 4.000 soci, e quindi si è sempre, se vogliamo, autofinanziata, e negli anni è cresciuta anche in visibilità. In particolare quest'anno siamo abbastanza presenti anche sui media audiovisivi, e abbiamo sempre però mantenuto il format, che è quello di prendere in esame le opere prime dell'anno appena trascorso. E in particolare c'è una cosa notevole, che in queste 5 edizioni abbiamo preso in esame ben 101 opere prime distribuite in sala. Di queste ne abbiamo proiettate 40, sì, e di queste 40 ne abbiamo premiate 12, di cui con quella prossima sono 5 trofei, e le altre sono delle belle targhe di partecipazione, perché essere solo candidati al premio significa essere stati selezionati da una commissione di esperti appositamente nominata. Quindi comunque è uno strumento di visibilità anche per sì, te. Ecco, poi abbiamo introdotto a partire dal 2007, sì, una innovazione. Ci abbiamo fatto per tutti i film in concorso delle proiezioni mattutine per gli studenti delle scuole medie superiori. Noi quest'anno abbiamo avuto studenti di ben 16 scuole che hanno visto i 3 film in concorso e hanno votato. Ah, bene. Questo fa parte di una se vogliamo, di un progetto nell'ambito della manifestazione che si chiama Progetto di Educazione al Cinema d'Autore, che cerca di avvicinare i giovani a quei film che difficilmente loro vedono nelle sale, perché difficilmente sono trascinati a vederlo. Sì. Loro sono più, ovviamente, soggetti più sensibili alla pubblicità e a nomi altisonanti, quindi è difficile che vadano a vedere questi film. E devo dire che sono straordinari questi giovani per la presenza, per l'attenzione, e votano con entusiasmo, e credo che sono piccoli semi che col tempo significa che i giovani si avvicineranno di più a dei film che hanno maggiore contenuto culturale. Insomma, questo è lo spirito dei cinecircoli, in particolare del nostro. Bene. Pietro, per saperne di più sul programma ci puoi lasciare un riferimento internet? Sì, su www.cinecircoloromano.it trovate tutto. Benissimo. Allora, in bocca al lupo per questo finale e ci sentiamo. Ricordo che l'auditorio del Salone Magno che ospita la manifestazione sta in via Bolzano 38, cioè Santa Costanza, tanto per dirlo ai romani. Va bene, allora un abbraccio e a presto. Grazie, grazie. Pietro Murchio, direttore della quinta edizione del premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime a Roma dal 30 marzo al 4 aprile. Questa è Radio Onda Rossa, 87.900, la modulazione di frequenza è visionaria ogni giovedì dalle 14 alle 15. Contattiamo ancora ospiti. È la tua, è la volta tua, dai. Come sempre, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi tutti, a Federico. Che dirvi, noi oggi pomeriggio vi parliamo di una cosa che avviene stasera, che è una piccola, però io sono felicissima appunto di ospitare questa piccola rassegna dedicata ad un gruppo di filmmaker italiani che dal 2001 si sono riuniti insieme e danno vita ad una serie di documentari obiettivamente molto interessanti. Allora, la rassegna si chiama Todo Modo dal 2 al 5 aprile. Dal 2 al 5 aprile, quindi da questa sera per tutte le sere alle ore 21. I Todo Modo sono il nome che i filmmaker hanno scelto, una sorta di marchio di fabbrica. I loro sono documentari assai veramente interessanti, soprattutto per le tematiche che affrontano, che sono varie. Infatti è per questo che mi hanno molto colpito quando li ho conosciuti la prima volta. Esempio, hanno deciso di dedicare, io su questo diciamo li sto ospitando anche perché ho preso tutto da loro e anche la selezione dei titoli delle serate, quindi sono loro che hanno indicato questi titoli su cui io sono favorevolissima. Per esempio stasera il tema della serata è il ritratto d'artista, perché loro appunto affrontano temi di varia natura, che possono essere persone, che possono essere situazioni sociali, che possono essere emarginazione. Per esempio stasera invece sono particolari tipi di persone, in questo caso artisti, e ci abbiamo due documentari che secondo me andrebbero veramente così visti anche con attenzione. Uno di questi è Nico D'Alessandri, dedicato al regista post pasoliniano scomparso nel 2003, ed è un documentario sulla sua persona, sulle sue difficoltà, ma anche sulle sue capacità di arte attraverso diciamo una figura borderline come la sua e come quella dei suoi personaggi. Ma stasera, subito dopo, c'è anche La morte mi fa ridere e la vita no, che è uno dei documentari dei Todo Modo, di questo gruppo di filmmaker appunto. È un documentario insomma tra i più interessanti, dedicato a Piero Ciampi, alla figura di Piero Ciampi, questo personaggio incredibile, questo cantante livornese anarchico, ubriacone, alcolizzato e quant'altro, morto purtroppo tempo fa, che però insomma ci ha lasciato davvero dei testi di poesia inimmaginabili, cui loro parlano attraverso anche la voce di chi lo ricorda. Ma questo per indicare questa serata. In realtà poi chiaramente questi documentari, che sono documentari molto noti tra gli addetti al settore, però assai meno noti tra il pubblico, quello diciamo appunto anche dei cineb, che però hanno vinto anche premi di categorie insomma piuttosto importanti. Per far ridere, ha partecipato all'anteprima al Festival di Bellaria, per dire. Ma la stessa cosa si può dire per Il Giorno Dopo. Per esempio, Il Giorno Dopo c'è un interessante documentario che richiama al passato di un grande come De Seta, al passato chiaramente dei suoi lavori, e che richiama Diario di un Maestro. Non so se te lo ricordi, Federico, che era uno... Come no, lo vidi in televisione parecchi anni fa, ma mi rimase molto impresso. E questo sceneggiato televisivo appunto che fu una sorta di primaria e primigenia fiction, forse, sì, tra sì, le sì, prime proprio in assoluto, che aveva come protagonista il maestro Bruno Cirino, l'attore Bruno Cirino, che da De Seta appunto era stato inviato all'interno di una scuola al Tiburtino Terzo per tentare una nuova strada di educazione e di apprendimento con i ragazzi del Tiburtino Terzo. Mm-hmm. Ecco, già di per sé questo sceneggiato del 72 fece epoca, perché davvero il metodo di insegnamento e la, come dire, combinazione tra un finto maestro e dei veri ragazzi, insomma, all'interno di questa scuola, e dei singolari metodi di insegnamento dell'epoca, che erano di partecipazione, di condivisione collettivi appunto dell'insegnamento, questi furono davvero temi molto seguiti all'epoca, e De Seta fu riconosciuto davvero come uno dei più grandi maestri del nostro cinema italiano, poi per la televisione, una volta in televisione si facevano cose di un certo pregio. Sì. Ecco, I Malestanti, che è quella, per esempio, che è il documentario che per esempio introduce la serata di domani, è un documentario che è andato sulle orme dei ragazzi, che allora erano ragazzi nel 72 e che oggi sono ultra quarantenni, a chiedergli la vita che gli ha fatto, che gli ha detto, che gli ha portato, insomma. Malestanti è un neologismo che inventò uno di questi ragazzi per definirsi diverso dai benestanti. Mm-hmm. E questo sta per esempio nel documentario di domani, così come c'è nel documentario di domani un altro documentario sempre appunto dei nostri filmmaker, che analizza la situazione tra Malestanti e Diario di un Maestro nella società contemporanea di oggi, nelle scuole di oggi, all'uscita delle scuole di oggi, oppure anche dando la macchina da presa in mano ai ragazzi nel documentario successivo, che è Inside Out. E questo per esempio è la giornata di domani, che è dedicata al tema della scuola. I temi successivi di sabato riguardano i partigiani e soprattutto le memorie e i luoghi, come hanno scritto loro. Poco tempo fa è uscito un documentario che noi abbiamo proiettato già nella mia Arena Pignese dello scorso anno, che è Ma l'amore mio non muore, dedicato ai partigiani dell'Appennino Tosco Emiliano, con i loro ricordi e le loro memorie di luoghi, che si vedono tra l'altro con una splendida fotografia nel documentario. Ma ci sono tutta una serie di, adesso io non posso, io ricordo soltanto che i nostri ragazzi documentaristi sono in grado di documentare ogni cosa in qualunque modo e soprattutto da qualunque punto di vista. Hanno fatto anche un documentario che vedremo sull'isola di Ponza e sulla vita degli isolani, così come hanno realizzato un documentario su Valeria, la regina della notte, su una delle più famose trans di Ibiza. Tutto questo sarà al film, naturalmente. Ricordiamo il sito a questo punto. www.cineclubalfaville.com. E spero insomma di vedere tanti spettatori, perché veramente, così come te Federico e come tutti gli ascoltatori, insomma, mi auguro davvero che possano essere davvero visti questi documentari, perché i ragazzi hanno il dono dell'originalità delle tematiche. Bene. E del grande ventaglio di proposte, sempre altamente professionali insomma, e serie e curate che fanno. insomma mi auguro che abbiano un grande riscontro e che possano essere visti il più possibile. Bene, cerco di esserci, Patrizia. E ti aspetto, anche perché te lo dico sempre, però stavolta lo dico con più coerenza. Anche perché è un po' in effetti che non ci si vede. Io non c'ero una vita, quasi non ti conosco più. Vabbè, no, non è vero. Vabbè, un abbraccio. Comunque, un abbraccio a voi, buon pomeriggio, grazie e buon proseguimento. A presto. Ciao Patrizia. Ciao. Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville. Conte della Fluid Video Crew per il documentario Diario di un Oscuro, che insieme a quello di Paolo De Falco, Leonardo, sarà in programmazione all'interno della rassegna Italia Doc alla Casa del Cinema qui a Roma mercoledì 8 aprile. Buon pomeriggio Lorenzo. Buon pomeriggio a tutti, ciao Federico. Come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene. È un po' che non ci si vede, eh? È un pochino. Allora, ieri sera per fortuna sono riuscito a vedermi il documentario. Grande, finalmente. Scusa che te l'avevo promesso settimane fa, però l'importante è che l'hai visto, insomma. Sì. Che dici? Mi è piaciuto, complimenti. Allora, bene, Diario di un Oscuro, storie di Sacra Corona Unita. Sì. Allora, racconta un po' a chi ci ascolta. Beh, questo documentario innanzitutto firmato Fluid Video Crew, in particolare con la regia mia di Davide Barletti e di Edoardo Cicchetti, narra le vicende di Antonio Perrone e di sua moglie Daniela. Chi sono? Sono due personaggi che alla fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80 hanno imperversato in Salento all'insegna della, come dire, della criminalità e del crimine. È un tema molto delicato. Antonio dal carcere ha scritto un libro, Vista d'Interni, e da questo libro è stato tratto sia un film che poi questo documentario. Sì. È particolare perché per la prima volta un mafioso, tra virgolette, perché è una persona che comunque non si è mai macchiata direttamente di fatti di sangue, si mette a nudo, ed è molto raro trovare comunque delle testimonianze di persone che hanno attraversato delle vicende così drammatiche con una scrittura senza, come dire, Antonio non si piange addosso in questo libro. Sì. È una testimonianza molto particolare e a noi ci ha colpito tantissimo, e attraverso questo libro, in particolare attraverso le testimonianze di sua moglie Daniela, quindi da un lato femminile, quindi di una moglie di un boss, di una moglie comunque anche madre di due figli, narra praticamente gli anni 80 in questa regione che noi siamo abituati a conoscere per il mare, per le bellezze, per le grandi e numerose attività culturali. Invece questa è una ferita ancora aperta in quel territorio che per la prima volta abbiamo provato a raccontare. Eh sì, perché poi gli anni 80 sono stati quelli dell'esplosione e poi della caduta della Sacra Corona Unita. Sì, perché questa strana quarta mafia, come è definita giornalisticamente, meno famosa rispetto all'Andrangheta, Cosa Nostra e alla Camorra, che fa? Si impadronisce e mette a ferro e fuoco per 10 anni questo territorio. il Salento era comunque una terra vergine, c'era una criminalità comune, fisiologica, non di associazione organizzata. Sì. E invece negli anni Ottanta nelle carceri si crea praticamente questa, chiamiamola, società di mutuo soccorso per i pugliesi che erano schiacciati dai camorristi, in particolar modo dai cutoliani e dalle altre associazioni, e quindi che fanno? Si mettono insieme per difendersi in un qualche modo e rivaleggiare con le altre organizzazioni mafiose. Mm-hmm. È stata un'organizzazione criminale che si è dedicata soprattutto al gioco d'azzardo e allo spaccio di droga, e in particolare dell'eroina e alle estorsioni. Per più di 10 anni ha tenuto, come dicevo, a ferro e fuoco il Salento, e poi a fine anni 80, inizio anni 90, con un'azione molto forte della magistratura sono riusciti in un qualche modo, almeno questa prima generazione di Sacra Corona, a sconfiggerla. Ecco, quello che relativamente a quest'ultima cosa che stavi dicendo, che su cui ponete l'accento, è anche relativo all'articolo 41 bis rispetto alla detenzione. Sì, questo è un tema molto delicato. Sì, perché? Sì. Perché è facile dire siamo contro la mafia, lo può dire chiunque ed è un'espressione banalissima. Il 41 bis, innanzitutto, per chi non lo sa, è un articolo del nostro sistema penitenziario molto duro, il più duro, è un regime, uno stato, un regime di detenzione molto molto particolare, dove praticamente è stato creato sull'onda dei fatti emotivi delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio nel 92, lo Stato reagendo a questi due tremendi attentati riaprì questi super carceri, e il 41 bis prevede l'isolamento pressoché totale del detenuto. Sì. E questo pone però dei limiti democratici in uno stato di diritto molto molto particolari. Cioè, è facile dire comunque siamo contro la pena di morte, siamo contro Guantanamo, così pochi sanno che in Italia abbiamo degli stati di detenzione che vanno, assomigliano e si avvicinano molto ad esempio a questi stati di detenzione che sono stati adottati per i terroristi ad esempio dagli Stati Uniti. Mm-hmm. E il problema è che non se ne parla, perché poi uno può essere contrario, può essere d'accordo, si può fare sicuramente un dibattito che non è facile, perché poi il 41 bis ha portato anche alla creazione di molti collaboratori di giustizia che per determinate indagini hanno aiutato, hanno fatto molto, e però pone proprio dei problemi per uno stato di diritto molto molto gravi. Sì. Antonio Perrone, il protagonista di questo documentario, è finito anche lui nelle reti del 41 bis, è stato nell'isola della Sinara, nel supercarcere, e è stato uno dei pochi sopravvissuti. Mm-hmm. Perché poi che succede? Sostanzialmente si impazzisce, perché hai un'ora d'aria al giorno in uno spazio praticamente con una rete sopra, un cubicolo di 2 metri per 2, qualsiasi colloquio lo fai dietro un vetro divisorio, anche con i familiari, anche con i figli, attraverso un citofono. Le celle, i bracci delle carceri del 41 bis sono dei carceri silenziosi dove non si sente volare una mosca, e quindi il detenuto in un qualche modo perde anche l'uso dell'udito, di tutti i propri sensi. Insomma, è una questione molto delicata che il documentario affronta, anche se non è un documentario sul 41 bis. Sì, certo. Però per la prima volta, non per la prima volta, ma cerchiamo di mettere in luce anche questa cosa di cui bisognerebbe sicuramente parlare di più. Mm. Almeno quello. Sì. Almeno quello. Sì. Antonio Perrone ha scritto il libro da cui è tratto Diario di un oscuro in 41 bis. Mm. E forse è stato il modo per, in un qualche modo, per salvarsi. Mm. Lorenzo, Ci sarà modo di vederlo in giro il documentario programmato da qualche parte? Sì, sicuramente sì, perché c'è questa proiezione mercoledì e poi sarà nella sezione panorama del Tech Festival a maggio. Bene, bene, bene. Quindi chi il prossimo mercoledì non potrà venire a Villa Borghese, a Casa del Cinema, può sicuramente rivederlo al Tech Festival nel mese di maggio. E a questo punto diamo anche i riferimenti internet della Fluid Video Crew. Beh, i riferimenti internet su MySpace, quindi Fluid Video Crew, vabbè, comunque ricordo, basta cercare su MySpace, insomma, Fluid Video. Sicuramente, okay. Sicuramente. Lorenzo, grazie, un abbraccio e a presto. Grazie a te Federico e a presto, okay. Buon pomeriggio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Lorenzo Conte, regista della Fluid Video Crew, ci ha parlato del documentario Diario di un Oscuro in programmazione alla rassegna Italia Doc a Roma, alla Casa del Cinema, l'8 aprile, mercoledì 8 aprile. Adesso sentiamo Paolo De Falco, regista dell'altro documentario, Leonardo. Buon pomeriggio a Paolo De Falco, eccoci qui. Buon pomeriggio a tutti. Regista del documentario. Ciao. Leonardo, già detto quando sarà proiettato per la rassegna Italia Doc. Allora, raccontacelo un po'. Ma Leonardo è un documentario su io non amo dire sulla comunità cinese, diciamo, sì, su alcuni cinesi che vivono a Bari. Sì. È un progetto che è stato commissionato dalla Teca del Mediterraneo e che, diciamo, è nato come un piccolo progetto, poi si è esteso. Infatti esistono due versioni, una breve di 30 minuti e una, questa che verrà proiettata mercoledì, che è stata anche a Torino in concorso e che dura 80 minuti. Sì. I protagonisti sono appunto una serie di cinesi che vivono a Bari, in particolare una coppia mista, nel senso che lui è barese, italiano, e lei è cinese, che aspettano un bambino, che aspettavano un bambino mentre io giravo, e questo bambino poi è nato proprio alla fine del film e si chiama Leonardo. Mm-hmm. Per cui io ho deciso di dare questo titolo. Non so, forse è meglio che mi fai delle domande. Sì. Perché... Senti, a questo punto ti chiedo come è nata l'idea di rappresentare questa parte della comunità cinese a Bari. Sì, beh, faccio una piccola premessa. Io da un po' di tempo che sto lavorando sul tema dell'immigrazione. Sì. O dell'immigrazione, diciamo, sul tema dell'identità liquida, io amo definirla così, come il frutto appunto di conquiste, di incroci, di percorsi, di mutamenti, ecco. E questo interesse, insomma, mi ha portato già a fare dei lavori sull'immigrazione italiana all'estero, sulle comunità degli italiani all'estero, in particolare in Argentina, in Cile e in Brasile. Ho fatto appunto tre documentari, e poi appunto abbiamo creato una sorta di archivio innovativo che abbiamo chiamato archivio liquido dell'identità, appunto. Uh-huh. Dove la parola liquido si riferisce sia all'archivio che all'identità, come dicevo prima. All'archivio nel senso che questo archivio non vuole essere un luogo statico, insomma, dove ammucchiare della roba che nessuno va a vedere, ma un luogo capace di essere sempre in viaggio, capace di trovare una metodologia anche, insomma, innovativa, o anche se in realtà si riferisce a percorsi già che hanno nel passato una tradizione. Uh-huh. E, mi riferisco a un tentativo di coniugare il momento della ricerca documentaristica a quello della distribuzione, e cioè nel momento in cui noi andiamo e giriamo e prendiamo, ci occupiamo anche di fare vedere i film, e questo è anche un nostro tentativo di risolvere questo problema della distribuzione, dell'invisibilità del documentario, sì, contemporaneo, sì, sì. No? E quindi questo archivio vuole mettersi in continuo viaggio, insomma, e cercare questa osmosi appunto tra i due momenti. Non è facile sempre ottenere questo processo, insomma, appunto osmotico, ma ci stiamo tentando. L'archivio è appena nato, e in realtà le istituzioni, a partire dalla Teca del Mediterraneo, che dicevo prima, che ha commissionato Leonardo, stanno insomma capendo, e quindi le prospettive, nonostante insomma il disastro culturale di questo paese, insomma io sono ottimista per il futuro, e penso che piano piano riusciremo a concretizzare questa provocazione, che all'inizio forse era anche una provocazione un po' così intellettuale, forse un po' anche troppo ideale, no? Sia sul piano della politica culturale che sul piano anche appunto della metodologia, ma adesso si sta concretizzando. Mm-hmm. E Leonardo rappresenta certamente un punto insomma importante, perché anche per questo discorso che cerca di affrontare il tema dell'immigrazione attraverso una prospettiva che non è sempre quella diciamo problematica, no? Cioè, come dire, l'emigrazione è comunque un problema di natura politica, di natura umanitaria, di natura antropologica. Io penso fondamentalmente che l'emigrazione sia una risorsa, e penso che anche il fatto di aver chiamato questo film Leonardo, per me è una risposta, come dire, semplice e profonda che la vita dà, no? Leonardo nasce al di là di qualsiasi impedimento, di qualsiasi problema, di qualsiasi, certo può apparire ingenua questa cosa, però è un atto di forza della vita, il fatto appunto che oggi in una realtà tra l'altro anche piuttosto statica come la Puglia, che anche se in apparenza sembra essere un territorio vivo e così, insomma, poi negli ultimi anni molto alla moda anche dal punto di vista cinematografico, in realtà è una realtà piuttosto statica e insomma è problematico, no? Problematica. E quindi ecco, il fatto che Leonardo nasca e sia lì oggi c'ha già un anno questo bambino e stia crescendo, e per me rappresenta la risposta, come dicevo prima, insomma, della storia, della vita più forte che si può dare a qualsiasi insomma questione. Bene. Paolo, c'è un riferimento internet per saper di più sul tuo documentario? Un riferimento internet per il documentario? Sì. No, perché il sito è in costruzione, okay. Quindi purtroppo non possiamo ancora darlo. Va bene, allora in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti e a risentirci. Grazie molte. Ciao. Grazie a voi, ciao. Paolo De Falco, regista del documentario Leonardo, mercoledì prossimo 8 aprile alla Casa del Cinema qui a Roma all'interno della rassegna Italia Doc. Andiamo avanti. Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, parliamo quest'oggi di parecchio del Pigneto. Abbiamo parlato della rassegna Totomodo dell'Alphaville e adesso parliamo di Officine, per una rassegna che prenderà il via martedì. Sì, no, infatti mi fa piacere, vedo che ormai la trasmissione è diventato un appuntamento fisso quasi solo col documentario, insomma, sì, comunque è segno di una vitalità del documentario, e la nostra, diciamo, il nostro evento rassegna che inizia martedì va nella direzione stessa, insomma, delle iniziative anche di Alphaville, Casa del Cinema. Bene. Noi siamo partiti dall'esperienza fatta tra l'altro con Alphaville, fatta all'interno del Festival di Roma lo scorso ottobre, dove negli 8 giorni che abbiamo curato per conto del Festival al Cinema Aquila ci fu una inattesa, insomma insperata ma comunque gradita presenza di pubblico, oltre 1500 spettatori in 8 giorni, e quindi stiamo rilanciando, diciamo, con una proposta che è in via sperimentale nei prossimi 2 mesi, ad aprile e maggio, ogni martedì per 8 appuntamenti, proporrà dei documentari e incontro con gli autori. Dicevo in via sperimentale perché poi in realtà il nostro progetto è molto più ambizioso e ci piacerebbe, stiamo lavorando per questo, perché l'appuntamento diventa un appuntamento non solo del Pigneto ma romano, esteso, diciamo, a diverse sale che possono in qualche modo unirsi per dare quello che potrebbe già delinearsi come un primo circuito di circolazione del documentario. Bene. Questa è l'idea alla base della rassegna, che abbiamo chiamato Cinema del Reale, i martedì del documentario. Il martedì del documentario va proprio a identificare un giorno che noi vorremmo diventasse fisso nella prossima stagione, iniziando appunto da questi 2 mesi di aprile e maggio del 2009, diventasse un appuntamento fisso per tutti gli amanti del cinema, e non solo, per dare spazio a questi documentari, a questa offerta enorme e di qualità altissima di documentario, di cinema del reale, come ci piace chiamarlo, che oggi c'è. Bene, quindi sarà possibile anche incontrare gli autori. Sì, noi abbiamo messo l'accento su questo, diciamo, sì. L'incontro con l'autore non è soltanto un momento di celebrazione del film, ma è lo stimolo, il volano per discutere dei temi che questi film trattano, nel senso che appunto stiamo parlando di cinema del reale, di cinema documentario, e sappiamo come questo cinema, forse più liberamente, anche per via del linguaggio che utilizza, è a stretto contatto con il nostro paese, non solo, anche con le realtà di altri paesi, dell'immigrazione per esempio, eccetera. Per cui ci sembra che l'incontro con l'autore possa essere molto interessante, e abbiamo vincolato, diciamo, gli autori alla presenza, li abbiamo vincolati alla presenza della proiezione. Noi faremo 8 documentari, iniziamo con 8 documentari, il primo è questo Air India di Raffaele Brunetti e Marco Leopardi, che è quasi inedito, ha avuto una proiezione al Cinema Sacher il mese scorso, è un documentario coprodotto da diverse televisioni internazionali, tra cui la RAI, e che sarà in concorso al Toronto Hot Dogs Film Festival prossimamente, selezionato nei migliori festival del mondo del documentario. E poi continuo con 8 titoli, non so se li vuoi sentire tutti, insomma. Ci potresti dare intanto indicazioni su dove trovare il programma in rete? Sì, il programma in rete lo trovate sul sito di Officine, che è www.officinepigneto.it. Lì ci sono anche le schede dei film, noi abbiamo cercato di prendere alcuni dei film più freschi, più nuovi, qualcuno non è mai stato proiettato, quindi sarà la prima proiezione, altri sono già stati visti, ma sono comunque stati selezionati perché riteniamo che siano tra i più interessanti degli ultimi usciti negli ultimi mesi. Bene, Cristian, credo che ci sentiremo prossimamente allora. Sì, lo spero. Comunque, complimenti per questo spazio da tanto volontario. Grazie. Bene, un abbraccio, a presto. Un abbraccio, ciao, ciao. Federico, ciao. Di qualche uscita del weekend cinematografico, lo facciamo intanto con Federico, il nostro Federico Pontigia, che dovrebbe aver raggiunto la postazione. Eccoci qui, Fede. Raggiunta la luce del sole, ciao a tutti. Allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Cosa abbiamo visto di buono? Allora, cosa abbiamo visto di buono? Innanzitutto Luis Michel, sì, che esce appunto questo domani con Fandango. Una commedia preveggente, perché praticamente delineava già più di un anno fa, pensavo alla sceneggiatura ancora prima, quello che per esempio sta succedendo in Francia, dove i dirigenti vengono sequestrati per poche ore. Ma in questo film della coppia De Kerven e De Le Pen si va oltre, perché i protagonisti sono delle operaie, tra cui una, Louise, all'alba a ridosso del licenziamento, ha un'idea: mettere insieme le misere buone uscite per assoldare un killer con l'obiettivo di eliminare il loro precedente capo, che se l'è data gambe. Verrà assoldato un killer, Michel appunto, alquanto improbabile, ma i due partiranno indomiti lo stesso alla ricerca di questo capo, dissemineranno molte morti sul loro cammino, ma alla fine chissà, forse lo troveranno. Ti diceva, una commedia preveggente e anche molto surreale e nerissima, che indica una strada, quella per uscire dalla crisi. L'unica cosa è che io ho apprezzato molto l'idea anche, e anche la realizzazione, molto semplice. Loro lo dicono che non hanno tecnica. Però comunque ho trovato un po' di alcune idee poco brillanti e un po' di ripetitività. Però Io li ho anche intervistato da Kerven. Lui diceva che rispetto ai due film precedenti, sì, in bianco e nero, che erano molto più duri, qua ha cercato delle scelte, sia dal punto di vista appunto della giunta del colore, sia di rendere la narrazione appunto più semplice, più lineare, per venire incontro al grande pubblico. Okay, questo via. Anche per il tema scottante. È vero che quelle che tu stesso hai notato sono delle debolezze, purtroppo, anche per la preveggenza di cui dicevo prima, in riferimento alla crisi, forse è stato più apprezzato, anche per quanto mi riguarda, più per il contenuto, diciamo, che non per la forma, questo sicuramente. Va anche ricordato che Louis Michel è un personaggio storico realmente esistito, un'anarchica francese di fine 800, se ben ricordo, sì, che era solita travestirsi da uomo, con tanto anche di baffetti disegnati sulle barricate, per cui questa Louise Michel ora sono due persone, potremmo anche definirlo quasi una sorta di terma e Luisa del XXI secolo, se non ci fosse un problema che appunto i generi in questo caso sono meno definiti. Non svegliamo altro, perché questo è uno dei segreti del film anche. Senti, invece, tra i film già in programmazione, ti volevo chiedere di Forta Pace e poi di altre cose che ti vengono in mente. Allora, Forta Pace, per quanto mi riguarda, dico solo questo, che è un film molto interessante. Anche qua comunque il focus è tutto sul contenuto, quindi grande passione civica e civile. C'è un problema però, riguarda la forma anche in questo caso, purtroppo, che è un film prego morra, come dire, che esce per vicissitudini distributive e produttive avverse appunto dopo Gomorra. Mi spiego. È come dire un ottimo esempio, un grande esempio di fiction TV, purtroppo, perché se è vero che tutti gli interpreti, a partire dal libro di Rienzo nella parte di Giancarlo Siani, sono sicuramente azzeccati e fanno la loro, d'altro canto la regia di Marco Risi, come dire, è ancorata a un tipo di narrazione e dimostrazione che davvero non ha elaborato il nuovo mafia movie, tra virgolette, inaugurato appunto da Gomorra. Forse non è un problema l'essere classico, ed è un film autenticamente classico, soprattutto per quanto riguarda proprio la drammaturgia e la narrazione, ma sicuramente credo che Gomorra e film ovviamente abbia costituito un punto di rottura oramai ineludibile. Fare un film che riguardi comunque addirittura la Camorra, non solo la mafia in generale, quindi che sia molto assimilabile come humus sociale e criminale a Gomorra in termini così classici, secondo me purtroppo oggi deve essere considerato un difetto. Senti, un ultimo titolo che ti viene in mente, se c'hai... Un ultimo titolo, io direi che, non so se ne avete già sicuramente parlato, di Ponio no. Sulla scogliera. Sì, ne abbiamo parlato. Che è andato... Che è andato davvero davvero male, comunque al di sotto delle aspettative, è già fuori dalla top 10 alla seconda settimana, e come dire, c'è anche un motivo distributivo, e qua sta nell'ignoranza purtroppo dei nostri esercenti, che l'hanno considerato, io credo a torto, unicamente un film per bambini. Se è vero che Miyazaki, che appunto è tornato alla mostra di Venezia per presentarla dopo aver ricevuto il Leone d'Oro oramai 4 anni fa, l'ha fatto espressamente per i bambini, questo non vuol dire che non possa essere apprezzato e fruito anche dagli adulti. Invece l'esercente l'hanno messo solo al pomeriggio. E a sostenere questa tua considerazione, ti dico anche che stamane ho incontrato Edoardo Dell'Acqua del Nuovo Cinema Aquila, e mi ha detto che invece lì sta andando bene, no? Che insomma non è... Sta andando bene perché lo fanno anche la sera. Sì. Non, ecco, è quindi rivolto è il solo problema, infatti, sì, lo fanno anche la sera. Questo è un segno di grande lungimiranza, perché purtroppo da tante altre parti va solo al pomeriggio come prodotto esclusivamente per un pubblico di ultra minorenni. Da ultimo, l'ultimissima cosa, salutiamo con favore la prima posizione al box office di Gran Torino di Clint Eastwood dalla terza settimana. Devo dire però che io, tutto quell'entusiasmo per il film, sarò una voce fuori dal coro, credo, a vedere le recensioni che unanimemente gridano al capolavoro. Per quanto mi riguarda non l'ho trovato, cioè sono l'ho trovato d'accordo, comunque... sono d'accordo, non è un bravo, capolavoro, è un classico, è un film minore di Eastwood, l'Eastwood che personalmente mi piace di più è quello di tra gli ultimi di Mr. River, credo che Million Dollar Baby fosse una leggera discesa, questo sicuramente è fatto per il grande pubblico, ed è fatto, l'unico elemento davvero di interesse è forse la riflessione che porta con sé su quanto Eastwood abbia rappresentato un'icona e di che tipo nella cultura, nella società americana. Non mi riferisco solo a Harry Callaghan, ovviamente. Per il resto, cioè, il buonismo è un buonismo veramente che anche ben venga, cioè il buonismo, senza offendere nessuno, di quello che è da considerarsi un anziano, ovviamente, che ha ancora molta ironia, però è davvero un buonismo che stride con quello che credo sia, oltre che il più, come dire, il più efficace, anche l'Eastwood più autentico, quello del dolore, quello della sofferenza, quello della mancanza di espiazione, di catarsi, quello che ha a che fare con un rimosso davvero pesante, come appunto quello di Mystic River. Grazie Fede, alla prossima. Grazie a voi, alla ciao. Prossima, ciao, un ciao. Abbraccio, ciao. Forse ce la facciamo per un ultimo squillo. Qui. Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Allora, sono un po' che manco. È un po' che manchi. Sì, problemi fisici. Allora, che ci dici di buono? Oddio, neanche tante cose buone, perché tra le uscite di questa settimana io ho visto solo due film. Sì. C'è un ritorno nelle orecchie dell'audio molto fastidioso. Riesci a levarlo? L'audio no, non no? È il telefono, probabilmente dipende dal telefono. Dal vostro però. Sì, sì, sì. Ok. Vabbè, cercherò di sopportarlo. Allora, io non ho visto il film di Pupi Avati. Mm-hmm. Non so se tu l'abbia visto. No. Ah, ho capito. E non ho visto Ballare per un sogno, io e Marley. Sì. Credo di non aver perso delle cose memorabili, no? A questo punto parliamo di Louis Michel. Ho visto Louis Michel e Mostri contro alieni. Sì. Ma forse è meglio parlare di Mostri contro alieni. Va bene, se vuoi parlare di Mostri contro alieni. No, parlo di tutte e due, nel senso che Louis Michel l'ho visto un po' per caso al Festival di Roma, no? Mi era stato presentato come una cosa pazzesca. In realtà io l'ho trovato un po' sottovalutato. Sì, anch'io, devo dire. Da una parte della critica, altra parte la pensa come me, fortunatamente. Quindi devo dire che sì, un film surreale, anche a tratti divertente, ma non così tanto, né uno né l'altro, insomma. Sì. Forse attuale per quello che succede, no? Episodi, sì. Insomma, che accadono di questi due pazzi che sequestrano un manager. E cioè, Mostri contro alieni è carino, interessante, vabbè, dobbiamo dire che ha la grande, il grande pregio di avere l'innovazione del tridimensionale, mm-hmm. no? Che comunque già esiste da anni, ma è la prima volta, almeno da noi, che è una tecnica standard per vedere un film. Quindi verrà proiettato in tutte le sale in tridimensionale, con gli occhialini, e ne vale la pena, no? Mm-hmm. Non so se tu l'abbia no, visto. No, non l'ho visto, ho perso anche quello. Ah, ecco. No, è molto divertente, no? L'idea del 3D. E la storia è anche simpatica, come tutti i film, dunque credo che sia un DreamWorks, no? Sì. Sì. Ecco, quindi i film della DreamWorks in buona parte sono divertenti e con delle ottime trovate di sceneggiatura, anche i mostri, gli alieni sono simpatici. Quindi insomma lo consiglio per un pubblico trasversale, perché sai, questi cartoni di animazione sono comunque, a parte alcuni palesemente per bambini e ragazzini, la maggior parte ormai sono anche per gli adulti. Sì. Anzi, forse l'animazione in questo periodo ci dà cose migliori che il resto, a parte qualche eccezione. Mm-hmm. Quindi insomma lo consiglio, dai. Ok. Mettiamo una X. Allora ci facciamo così, ci risentiamo con calma la settimana prossima. Siamo in chiusura. Okay. Sì, anche perché io non ho parlato di altre cose già uscite, forse vale la pena. Forse vale la pena soffermarsi un po' su alcune cose, sì. Ok. Sì, sì. Ci si vede in sala. Ok, ciao. Buon pomeriggio, ciao a te. E noi siamo in chiusura, buon proseguimento. A giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Visionari, la scaletta è sul sito ondarossa.info.